se domani io non potessi rivedere te. Mettiamo il caso che ti sentissi stanca di me. Quello che basta all'altra gente non mi darà. Nemmeno l'ombra della perduta felicità. E se domani, e sottolineo se, all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanca di me. Quello che basta all'altra gente non mi darà. Nemmeno l'ombra della perduta felicità. E se domani, sottolineo se, all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te.